Io andrei, ridiventerei un attimo latini per stare in tema con questo festival, che dite? Eh? Ci buttiamo? Savor! I latini stanno zitti? No, suonano dopo. Cioè, i latini sono più calmi, no? Prima prendono tempo, poi prendono la chitarra, poi battono quattro, dicono caramba, e poi vanno. C'è qualche cosa che non va, tequila. Da quella notte che ho bevuto con te, non bevo più tequila. Da quella volta che ho perduto te. Tequila. Da quella volta che ho perduto te.